Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Che cos'è l'economia della pace e cosa comporta un'economia di guerra ai sistemi economici? Sono temi di grande interesse e non solo per gli storici dell'economia, perché si tratta di aspetti da tempo dibattuti cui non sempre sono state fornite risposte univoche. Di questi argomenti tratterà l'intervento di Raul Caruso, autore del libro Economia della Pace, edito dal Mulino, previsto per domenica 11 giugno all'interno della nona edizione del Festival Leggendo Metropolitano di Cagliari. Un appuntamento fitto di incontri e dibattiti. Sono previsti oltre 50 eventi e 70 personalità del mondo scientifico e culturale per confrontarsi sulla facoltà alla base della conoscenza, la memoria. Sì, perché il tema di questa edizione del Festival è tra la memoria e l'oblio. Il titolo dell'intervento di Raul Caruso, ricercatore e docente di politica economica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è Why Give Peace a Chance? La razionalità della pace. Buonasera, professor Caruso, e benvenuto. Buonasera. Se invece di guardare alla crescita del PIL nel breve termine, guardassimo alla crescita della produttività nel lungo periodo, ci troveremmo già in un'economia della pace. L'economia della pace, che vanta padri illustri quali John Maynard Keynes, Kenneth Arrow e Lawrence Klein, studia le cause e le conseguenze economiche delle guerre e di altre forme di violenza e analizza la crescita e lo sviluppo di istituzioni volte alla risoluzione di scenari di conflittualità distruttiva. Esiste una conflittualità di livello macro che coinvolge gli stati, la loro politica estera e le loro politiche economiche, e una conflittualità micro in seno alle società nei rapporti tra Stato, gruppi sociali, formazioni intermedie e cittadini. La guerra produce profitti. Produzione di denaro a mezzo distruzione. Il potere economico delle armi fa eleggere presidenti o cadere regimi. Secondo la legge di Say, l'offerta crea la sua domanda, ma i conflitti non riguardano solo gli Stati o le etnie, riguardano tutti noi, cittadini, elettori, famiglie. Allora, professor Caruso, analizziamo un po' gli elementi alla base di questi conflitti e come può l'economia aiutarci a evitarli. Beh, l'economia può aiutare le società a rimuovere le cause dei conflitti, nel senso che le politiche economiche che possono essere applicate a una moltitudine di problematiche sociali e eliminare gli incentivi che hanno i soggetti a essere coinvolti in un conflitto distruttivo. Faccio un esempio: nella storia la più grande quantità di conflitti l'abbiamo avuti per la distribuzione delle risorse, no? Sì. L'economia può spiegare, cosa che fa da tempo peraltro, può spiegare qual è una giusta equa distribuzione di risorse che eviti poi un conflitto tra due parti. Ma allo stesso tempo, questo è l'esempio più facile che mi viene in mente. Un altro esempio che potrei utilizzare è quello, ad esempio, del rapporto che c'è tra l'istruzione, l'educazione e gli incentivi ai conflitti. Molti ignorano il fatto che è statisticamente dimostrato che le società con più elevati livelli educativi quindi con maggiore produttività sono quelle meno inclini a fare la guerra. Semplicemente perché quello che noi economisti chiamiamo il costo opportunità, cioè quello a cui rinunciamo per fare una guerra, è molto elevato. Quindi se noi siamo particolarmente brillanti, particolarmente produttivi, ad esempio nei settori manifatturieri, avremo meno incentivo a impegnarci in una guerra. E questo è uno dei temi a cui l'economia della pace può fornire dei contributi. Certo, poi ci sono dei dati inequivocabili che riguardano i benefici, tra virgolette, che le guerre portano all'economia sotto forma, ad esempio, di incremento degli armamenti, le spese per la difesa, però evidentemente si tratta di benefici illusori, professore, cioè che poi danneggiano. Sono benefici di brevissimo periodo per pochissimi soggetti, cioè nel senso che si commette sempre da parte di molti un errore classico, diciamo, che ogni buon studente dovrebbe evitare: immaginare che immaginare che la somma di profitti di alcune aziende sia necessariamente un vantaggio netto per la crescita dell'economia. Il fatto che alcune aziende guadagnino non significa che ci sia un vantaggio netto, perché mentre alcune aziende guadagnano nel produrre ed esportare altro, facciamo un esempio pratico, tante altre aziende non guadagneranno perché non potranno ad esempio più esportare nei territori in cui le prime aziende hanno esportato armi e ha alimentato un conflitto. C'è un altro elemento, poi, sì, concluda, sì. Concluda professore, mi scusi. Sì. No, e quindi diciamo che il saldo, anche ammesso che vi sia un beneficio, lo è solo nel brevissimo periodo, è per pochi, ma poi a ben guardare, a fare bene i conti, anche nel brevissimo periodo sono più gli svantaggi che i vantaggi. E ripeto, questo è un errore classico che si fa un po' nel discorso pubblico rispetto ai grandi benefici che i profitti di queste grandi imprese di armi possono portare all'economia. Sono benefici illusori, come ha detto giustamente lei. E quindi però in ogni caso questo tema impone quantomeno un intervento coordinato, se vogliamo, a livello europeo, se non altro a livello mondiale, per un'economia della pace, che è un aspetto decisivo. Evidentemente il tema è necessariamente globale. In fondo la pace è una sorta di bene pubblico globale, da alcuni definito. È chiaro che noi abbiamo la necessità che a livello europeo vi sia una maggiore integrazione per l'industria della difesa, perché i paesi europei hanno tradizionalmente delle imprese, dei campioni nazionali, si chiamavano una volta, dei campioni nazionali nel settore della difesa, e sono tutti molto gelosi di queste proprie apparati militari. Però qual è stato il risultato? Che in un mondo di maggiore competizione dal punto di vista tecnologico, queste imprese alla fine si ritrovano a competere sul mercato mondiale, offrendo sempre nuove armi, peraltro anche a prezzi competitivi, a stati dittatori, a paesi non democratici. E quindi siamo nel paradosso tutto europeo, per cui siamo alleati dal punto di vista militare, ma siamo concorrenti nel vendere armi a paesi, a leader, a capi di Stato, diciamo, di paesi non democratici, che poi che producono insicurezza che noi paghiamo. Quindi, professore, si potrebbe sostenere che le crisi mondiali sono una causa delle spese militari e di un'economia non di pace, o un effetto, ecco, su questi due corni del problema che lei tratterà poi nel suo intervento l'11 giugno. Sì, sì. Dunque, la domanda è si fa fatica a rispondere, perché cosa sia causa e cosa sia effetto dipende dai casi. C'è da dire però sicuramente una cosa, che le armi, sebbene la spesa in armamenti, sebbene possa essere motivata da cause differenti, in ogni caso rende più instabili i sistemi, per il semplice motivo che le armi sono in fondo la tecnologia della produzione della violenza. E come un'azienda, al pari di un'azienda normale che se ha maggiori risorse tecnologiche le usa nel mercato, così i paesi che hanno maggiori risorse tecnologiche nello strumento, in strumenti di offesa, li utilizza. Quindi l'esistenza delle armi, al di là del fatto se siano causa o effetto dei conflitti, ma sicuramente rendono i sistemi stabili. E questo quindi è un dato oggettivo, peraltro, tant'è vero che l'insicurezza percepita che noi abbiamo negli ultimi 2 anni e l'insicurezza percepita nel resto del mondo è diminuita, l'insicurezza è aumentata, certo, in virtù del fatto che abbiamo una maggiore diffusione di armi. E peraltro, notizia cattiva, il mondo continua ad armarsi, sì. Quindi per definizione diventa più stabile. Certo. Un'ultima domanda, professor Caruso. Come mai ha scelto nel titolo della sua esposizione dell'11 giugno a Cagliari la razionalità della pace? Perché è una scelta razionale? Beh, certo, in gran parte sì. Sì, in effetti lo sforzo che c'è dietro tutto il libro è proprio quello di presentare la scelta della pace come una scelta perfettamente razionale, non solamente Perché molto spesso quando si fa riferimento alla pace si ha in mente magari una componente etica, si ha in mente una motivazione intrinseca, che per carità, la cui importanza io non nego, evidentemente. Ma quello che io voglio evidenziare è che la pace è sicuramente il vero investimento per il futuro, cioè è il vero scenario che consente poi di svilupparci, che ci consente, che ci favorisce lo sviluppo nel lungo periodo, che quindi l'unica scelta vera che le società e i policy makers cioè, dovrebbero fare per garantirsi una società prospera nel futuro. Quindi in questo la scelta della pace è perfettamente razionale. E da qui il La scelta di titolo. limitare gli armamenti è perfettamente razionale. Certo, razionale corrisponde a scelte che comunque vanno adottate a livello globale, come abbiamo appena detto. Professore, la ringraziamo molto e le auguriamo buona serata. Buonasera a lei.